Ben ritrovato Massimiliano Bruno. E allora, come stai, carissimo? Bene. Io sono sempre un affezionato di Onda Rossa, quindi eccomi qui con voi anche Allora, con te per parlare dello Short Lab dal 27 febbraio al 25 marzo al Teatro Cometa Off. Intanto per chi ci ascolta, raccontiamo un po' questa avventura dello Short Lab che non è alla prima edizione. No, siamo già alla terza edizione dopo aver fatto anche un'edizione di esperimenti teatrali 4 anni fa e siamo arrivati alla terza edizione. È una vetrina per giovani artisti, attori, autori e registi che in qualche modo possono proporre dei corti teatrali o dei monologhi. E insomma, ne parlo con grande orgoglio perché abbiamo fatto più di 200 debutti in questi ultimi anni. Giovani autori di 19-30 anni, i nostri vincitori di Short Lab che comunque hanno cominciato ad affacciarsi nel mondo del lavoro, come Giuseppe Ragone o Cristina Chinaglia, Agnese Fallongo e tutti giovani attori, giovani autori che stanno cominciando a mettersi in luce. Quindi sono veramente molto contento. È anche un modo per fare una vetrina, facciamo in modo che nella giuria ci siano addetti ai lavori, agenti e casting o produttori, registi, insomma, fare in modo di fare un po' un provino a cielo aperto, ecco. Sì. Senti, com'è partito tutto 3 anni fa? Guarda, allora, in realtà questa mia passione per far lavorare, diciamo, cercare di cominciare a far lavorare i giovani nasce da molti anni prima, cioè nasce da quello che hanno fatto per me alcuni direttori di teatro. Piccolini, parlo ad esempio di Ulisse Benedetti del Teatro Colosseo, Certo. teatro che non c'è più purtroppo e che comunque quando io avevo 20 anni mi diede la possibilità di fare le mie prime cose. E questo è una cosa che non dimentico più ed è grazie a quella gavetta fatta nei piccoli teatri insieme a Paola Cortellesi, a Claudio Santamaria, a Valerio Aprea, a Sergio Zecca, a tanti attori, e registi e autori. Che probabilmente ho cominciato a costruire la mia carriera. Allora, già una decina d'anni fa, insieme a Valeria Preia e Furio Andreotti, mettemmo su Liberi Esperimenti Teatrali, che era una rassegna al Cometa Off dove ospitavamo tante compagnie di tutta Italia. Poi, 4 anni fa, Esperimenti Teatrali, e poi, questi ultimi 3 anni, Short Lab era proprio molto mirata a quello che è diventato un pochino il genere del momento di fruizione nei teatri off, cioè il corto teatrale, cioè piccole, diciamo, piccoli spettacoli che possono essere fruiti nella stessa serata, magari 3 o 4 spettacoli, si possono vedere in maniera molto snella, hanno dentro in nuce l'idea di uno spettacolo che potrebbe diventare quello che in maniera in inglese si dice startup, credo. Sì. Cioè un inizio di un potenziale spettacolo. E insieme a Gianni Corsi, Daniele Coscarella e Susan El Saoui abbiamo allora messo insieme questa piccola combriccola e il Teatro Cometa Off ci ha gentilmente dato ospitalità e abbiamo cominciato a lavorare. Si è unita da subito a noi Emergency, a cui insomma, cerchiamo di devolvere parte di quello che entra, e poi è un modo che sostanzialmente per fare un piccolo villaggio creativo, ecco. Sì. Senti Massimiliano, più di 60 i lavori proposti in questa edizione, un mese dal 27 febbraio al 25 marzo, come sarà strutturata la giornata? Allora, ogni sera ci sarà l'esibizione di 4 monologhi e 3 corti teatrali. E quindi sarà una serata che più o meno durerà un'ora e mezza, diciamo, e ci sarà una prima fase nelle prime 2 settimane di quelle che insomma, nel tennis e nel calcio si chiamano gironi di qualificazione, Sì. insomma, e nell'ultima settimana ci saranno invece 4 giorni di semifinali, dove approderanno in semifinale i corti e i monologhi più votati, e poi il sabato e la domenica, gli ultimi 2 giorni di marzo. E finalmente avremo le finali dove si decreterà il vincitore sia nella sezione monologhi che nella sezione corti teatrali. Continuativamente dal lunedì alla domenica? Facciamo una pausa il lunedì Ok. e poi si lavora martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, invece la domenica è pomeriggio. Senti, vale sempre la proposta del radioteatro per i lavori che saranno premiati di essere ospitati chiaramente nel programma di Onda Rossa, per cui tieni a mente anche questa possibilità, insomma. Certo, e vi ringrazio perché è un modo un po' per dare voce anche a chi ha meno voce, insomma, che sono Certo. più giovani, che hanno sicuramente grazie alla vostra radio pure un modo per farsi conoscere da qualcuno in più, insomma, per evolvere. Certo. Senti, in chiusura, ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni? Allora, i riferimenti web mi chiedi una cosa che io devi sapere che sono una persona un po' lontana dal web, quindi immagino che... sicuramente so che c'è una pagina di Short Lab su Facebook dove potete Ok. mettere mi piace, e poi il resto della nostra ufficio stampa Giulia Contadini Ok. informerà le notizie. Comunque il teatro come da off, volevo ribadirlo, è in via Luca della Robbia Sì. 47, nel cuore di Testaccio. Sì. È un posto dove si trova parcheggio, lo dico perché tante volte qualcuno volesse venire, insomma è una zona di Testaccio dove il parcheggio ci sta, e le serate durano circa un'ora e mezza, quindi insomma se si arriva alle 8:45 si parcheggia, dalle 9 alle 10 e mezza si vede un po' di buon teatro e poi si va a bere una birra fino a mezzanotte, e poi dopo ecco magari si fa anche l'amore da mezzanotte alle 2:25, che ne sai? Hai visto mai, dici? Ai dragoni, lo sappiamo, no? Come sei fatto tu. Senti, io t'abbraccio, Massimiliano, ci si vede a teatro e a presto, quindi. Va benissimo, grazie a te e grazie per l'ospitalità. Un abbraccio. Ciao.